Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Fibio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22 e 9 minuti, sulle note dell'ormai consueta chili con tofu, questa è Radio Possum. Che dici? Niente. Ma niente di particolare, stavo leggendo una cosa. Allora, sempre con molta serietà, questa settimana. Una cosa per la trasmissione. Certo. Mica i cazzi miei, cioè mica la rivista The Gossip. E vabbè, allora no, questa settimana non più una trasmissione al maschile, visto che una redattrice è tornata. Purtroppo è ritornata. La vogliamo cacciare, la vogliamo buttare giù dalla finestra. No, alla fine facciamo. Avevamo detto di no perché ci tornava comodo, è vero, che qualcun altro faceva la trasmissione al posto nostro. Vabbè, comunque dovremmo tipo aprire lo spazio al pubblico per chiedere se hanno preferito la trasmissione al maschile o quella al femminile, ecco. Hanno preferito quella al femminile. Quindi ora la trasmissione è vostra. Va bene. Andiamoci a bere una cosa, allora, va. Lo sa fa il mixer da sola? Chi lo fa, scusa? Va bene. Allora, di che parliamo stasera? E niente, stasera sentiamo dei ragazzi di Caserta, un gruppo antispecista in Campania. Bag in Campania si chiama, e ci sembrava giusto sentirli perché poi la realtà dell'antispecismo, dell'animalismo e nella percezione collettiva soprattutto diffusa nel nord Italia, ma invece apprezziamo il fatto che anche anche sotto Roma, diciamo, si stiano muovendo parecchie realtà in situazioni spesso anche più difficili di quelle che si trovano da Roma in su, e quindi vogliamo dargli spazio e vogliamo conoscerli e farli conoscere. Tra l'altro c'è un altro gruppo anche che conosciamo di nome, che si trova a Cosenza, però non siamo ancora riusciti a trovare un modo per contattarli. Va bene, allora un po' di musica e poi torniamo in diretta con le interviste. They have to feel that people don't think. I see a microphone. Sticking. See, I'm doing my own thing and I'm kicking it wicked. Now listen up, dickhead, I won't give you a chance to me what kind of music I should listen or dance to. That's if I did ask you, see, that's true. Now just sit back and relax and let this pussy attack you. Hey, there's a hole in the dance floor that is not okay. Been corrupted. I don't know what I'm gonna do about it. Maybe just tear it apart. They have been in charge many decades, but they never care for the odds. No, they only care for the charts. Now it's all I want. More and more people are sick with the same old melodies and the same old beats. And sure, they ever let them be shame on me. I'm just one enemy, and if you are too, you got a friend in me. The dance floor is a disaster, man, it has been sabotaged. Pardon me for having this air body interrupted, but I'm trying to tell you all your dance floor has been corrupted. The dance floor is a world uniting to fight and defend your right to pretend this hour the payment is raving friendly light entertaining. Better than a being needle is freaking from never seen to ever been seen. All up in your face on the reach of TV from CD and DVD to MP3 and MKB in full HD 1080p in its way. Pray with me and maybe we can make it real. I keep releasing vinyls with no major deal. Can't give them the pump or record labels fail. In submission, it's the mission of this constant repetition, just inflicted massive manic depression. That is the question I would like to ask the man in charge. The dance floor is a disaster, man, it has been sabotaged. Sonic force bending in submission, it's the mission of this constant repetition, just inflicted massive manic depression. That is the question I would like to ask the man. E allora torniamo in diretta con un attivista del gruppo Veg in Campania. Pronto, ci senti? Sì, buonasera a tutti. Ciao, okay, ciao. Ciao. Ciao. Senti, tanto per cominciare, ci presenti un po' il vostro gruppo, quello che com'è nato, quello che fate, le vostre principali attività, come vi muovete insomma sul territorio? Sì, sì, allora il gruppo nasce più o meno 3 anni fa, credo un po' con le dinamiche di tutti i gruppi di attivisti in tutta Italia. Circa un anno fa poi abbiamo deciso di darci un nome e abbiamo scelto appunto il nome di Veg in Campania, proprio per sottolineare che le battaglie animaliste antispeciste devono partire innanzitutto dalla tavola, cioè ben poco senso poi insomma attivarsi con presidi contro la vigilizione, contro il villice, se poi a tavola insomma ci cibiamo di animali, perciò dare un'impronta forte in questo senso. E cosa facciamo? Penso che appunto le attività sono un po' comuni in tutti i gruppi di attivisti. Partiamo dalle attività di sensibilizzazione sul territorio attraverso banchetti informativi, proiezioni, anche degustazioni in ambito appunto di cucina vegana e soprattutto poi presidi e proteste sul territorio, visto che purtroppo c'è tanto, tanto da lavorare. Posso, non lo so, accennare un po' le principali sì. Presidi che abbiamo organizzato in questi ultimi 2 anni, sì, per sì, esempio? Sì, sì, vai, raccontaci. Sì, allora, contro la vivisezione ci siamo mossi negli ultimi 2 anni. A novembre si tiene a Napoli che è il salone dell'industria farmaceutica e abbiamo organizzato appunto 2 presidi che hanno riscosso insomma un notevole successo lì davanti. E l'anno scorso, il giorno prima, sempre nel mese di novembre, abbiamo effettuato un presidio contro il Biogen, che è uno dei più grandi stabulari d'Europa, ad Ariano Irpino, provincia di Avellino, e appunto spesso ci si muove per andare a fare proteste un po' in altre zone, anche organizzando pullman, quando abbiamo realtà molto, molto tristi, molto drammatiche da affrontare anche vicino casa. È uno dei più grandi stabulari d'Europa, è stato inaugurato nel 2006 in circa 130 metri quadri ciascuno, una sorta di Green Hill dei topi. E insomma vorremmo appunto ricominciare un attimo ad occuparci anche di questo, cercando di attirare più possibile attivisti insomma in questo posto. E non so, presidi ovviamente contro pali, sì. Circhi tantissimi, purtroppo questi non mancano mai sul territorio. Nel periodo di ottobre-novembre in particolare abbiamo effettuato diversi presidi contro il Rinaldo Orfei. Per quale motivo? Innanzitutto perché era un circo che attendeva qui sul territorio, ma poi tutti conosciamo la vicenda di Alexander, la giraffa che è stata uccisa ad Imola nel settembre 2012 e apparteneva, se non sbaglio, al circo Martini, però il furgoncino che l'ha bloccata e che l'ha anche spinta contro un cancello e poi sappiamo che è morta, e almeno questo è stato riportato poi da tutti i telegiornali, apparteneva proprio a Rinaldo Orfei, e perciò abbiamo portato un po' questa testimonianza a tutti i presidi sia a Caserta, che a Nocera Inferiore, che in provincia di Caserta, Monteforte Spino, provincia di Avellino, e anche da qualche altra parte, un altro paio di posti, San Giorgio a Cremano, che è provincia di Napoli, proprio per far presente alle persone che quel circo, ma come tutti i circhi, quello è stato semplicemente una coincidenza che ci fosse questo piuttosto che un altro, alla fine non si tratta altro che di aguzzini di animali che, come Rick Sanders, cercavano soltanto di scappare da una vita di prigionia. E dimmi, chiedimi qualcosa. Sì, ciao. Sì, ti volevamo chiedere, prima parlavamo l'introduzione che abbiamo fatto, abbiamo detto ci piace sentire adesso un gruppo anche che è del sud Italia, perché in genere abbiamo sempre sentito gruppi nel nord Italia, anche perché molte campagne come quelle di Green Hill sono appunto svolte lì, però quello che raccontavamo è anche che tante volte nel sud Italia le situazioni e l'opinione comune è ancora più difficile da sensibilizzare su questi temi. Forse ci sbagliamo a questa valutazione, tu ci puoi dare una tua valutazione sul riscontro delle persone su questo tipo di lotta che state portando avanti, tutti diciamo anche gli aspetti che state considerando dello sfruttamento animale, quale è più ricettivo, cioè quale è più facile da far comprendere come sfruttamento e quale invece è più difficile? Sicuramente quello alimentare sarà più difficile, questo come anche esperienza personale. Sì, insomma, puntare a far riflettere su abitudini radicate è sicuramente più complicato. Ovviamente, ripeto, anche partendo proprio dal nome, tendiamo a sottolineare che quello è fondamentale. Durante il presidio del circo sicuramente non abbiamo un grande riscontro dalle persone che entrano all'interno del circo, anche se si sono verificati molti diversi episodi positivi in cui persone hanno deciso appunto di tornare indietro, però per esempio riscontriamo che nei passati negli automobilisti spesso arrivano cori anche di incoraggiamento, perciò questo ci fa ben sperare su una mentalità comunque, che una sensibilità comunque sempre maggiore. E le degustazioni, quelle vanno sempre fortissimo, perché anche quello è un modo comunque di avvicinare le persone a certe tematiche di sfruttamento, cioè cominciare a farle riflettere anche prendendole per la gola. E per quanto riguarda i presidi, ripeto, ci scontriamo comunque con gli organizzatori. Non so, per esempio nel presidio contro l'abbiamo organizzato quello contro la falconeria a Salerno un paio d'anni fa, eppure ci sono stati degli episodi di forte tensione con ieri, o le iniziative di Bari, e lì insomma anche lì sempre difficile insomma la situazione. E al circo, insomma, alla fine questi sono un po' gli ambiti. Al Fishing Festival organizzarono un festival di pesca sportiva, siamo stati presenti anche lì, ovviamente con una voce di dissenso, cercando appunto di far riflettere su cosa comporta la pesca sportiva e non. E ovviamente come organizzatori siamo sempre in pochi, però a seconda dei prossimi organizzatori, che siamo comunque un po' in tutta la campagna, abbiamo comunque sempre un numero di partecipanti. Sono viste le altre. Guarda, ti sentiamo un po' male. Ti sentiamo un po' male in questi ultimi secondi di telefonata, sono stati un po' disturbati. No, niente, guarda, facciamo così. In ogni realtà comunque riusciamo ad avere un buon numero di partecipanti, un po' in tutte e cinque le province della Campania. C'è sempre chi organizza e chi riesce a trascinare un po' di persone ai vari presidi, perciò stiamo crescendo. Questo, ci sono tanti episodi che fanno ben sperare. Senti, ti volevo anche chiedere, no, ci puoi raccontare un po' la realtà? Non so se l'hai fatto nei momenti in cui la telefonata è stata disturbata e quindi ce lo siamo persi, però se ci puoi un po' raccontare della situazione in Campania, nel senso che per esempio anche la presenza della camorra, di alcune forme di sfruttamento animale, come per esempio l'allevamento dei bufali per la mozzarella da bufala, no? Oppure anche la grossa incidenza di cacciatori, soprattutto di bracconaggio, quindi nella zona di Caserta. Sì, no, ma alcuni attivisti del gruppo fanno parte comunque di associazioni che si occupano di antibracconaggio e sono molto attivi sul territorio. Antibracconaggio, anche un'attività appunto di controlli e sequestri nelle aziende bufaline che appunto le maggiori aziende, comunque mi sembra oltre l'80%, sono concentrate comunque tra Caserta e Salerno, e infatti ultimamente abbiamo comunque diffuso, adesso collegandosi anche comunque al gruppo che abbiamo sulla pagina su Facebook, un'immagine che ha fatto comunque molto riflettere, che praticamente un cucciolo di bufalo con una piastra di plastica sul muso, che è un'abitudine che si usa anche negli allevamenti da latte, insomma bufali e di bovini in generale, per evitare che il vitello possa bere il latte della madre. Ed è un'immagine molto forte, perciò questo comunque ha fatto riflettere comunque chi mangia abitualmente latte, latticini, insomma, di bufala soprattutto. Quanto alla criminalità organizzata, forse mi ripeto, però l'abbiamo riscontrata soprattutto in manifestazioni tipo i pali di asini e di cavalli, e ci siamo scontrati comunque con delle realtà non molto facili. E poi vabbè, l'antibracconaggio, anche questo nelle zone, io non ne parlo in prima persona perché non ne faccio parte, però ci sono i ragazzi, alcuni del gruppo, che sono attivissimi e veramente perdono il loro fine settimana andando appunto a fare controlli di antibracconaggio, trappole, lacci e quant'altro nelle campagne soprattutto del Salernitano, zona Silento, perciò sud Salerno, con uno poi che purtroppo è il regno proprio incontrastato di cacciatori e bracconieri. Senti, no, ma poi dicevi bracconaggio, quindi più che col fucile, con trappole, lacci, reti per uccelli e via del genere. Anche, e poi fanno comunque controlli ai cacciatori, ci sono tutte regolarità dalla detenzione dei cani ai fucili al periodo poi di caccia vietata. Spesso fermano cacciatori, insomma bracconieri in questo periodo appunto. Ok, sì. Senti, se non so se hai altro da aggiungere, ma intanto magari ci puoi anche dire se avete prossime iniziative in programma, e ovviamente lasciarci anche i contatti per chiunque sia interessato anche della vostra zona a unirsi, a partecipare alle vostre iniziative. Sì, allora come prossima propria iniziativa abbiamo sabato prossimo una partecipazione, cioè il nostro banchetto informativo al Campania Eco Festival, che praticamente è un festival di musica che si tiene a Nocera Inferiore, il cui ospite sarà la voce storica dei 99 Posse, che è Meg, è il terzo anno in cui partecipiamo, e un'altra cosa, molto probabilmente saremo anche quest'anno, come nei due anni precedenti, avremo un banchetto anche al Giffoni Film Festival, e perciò insomma una bella vetrina, per la prima volta viene portato comunque un messaggio di attivismo, appunto di antispecismo, insomma rivolto un po' ad una bella fetta di partecipanti. E per quanto riguarda invece i contatti, allora noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Veg in Campania, e insomma si possono aggiungerci a questa, possono andare sulla pagina e poi magari mandarci un messaggio privato, oppure scriverci veg_in_ Campania @yahoo.com. Questi ci sono i nostri contatti. Va bene, allora se non hai nient'altro da aggiungere, cose che vuoi dire, noi ti ringraziamo. No, poi volevo forse dimenticato, insomma, tra le varie iniziative abbiamo anche è nata un po' così nello scorso inverno una sorta di volantinaggio, abbiamo fatto un po' un tour antipellicce in tutte le cinque province della Campania, praticamente un fine settimana dedicato ad ogni provincia e in genere zone centrali, e abbiamo distribuito ovviamente migliaia di volantini, e perciò insomma anche questo settore cerchiamo di coprirlo in questo modo. Penso che più o meno sia tutto, sì. Va bene, allora ti ringraziamo come al solito, come diciamo a tutte le realtà in lotta, i microfoni della radio sono sempre aperti, quindi qualsiasi aggiornamento, qualsiasi informazione, qualsiasi cosa che volete dire, telefonate, insomma, e avete una radio per comunicare le vostre azioni, i vostri presidi, se ci sono aggiornamenti, eccetera eccetera, quello che volete. Va benissimo, grazie mille per la disponibilità e buona continuazione. A presto. Buonanotte. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Mettiamo una canzone, va. allora torniamo in diretta con estrema precisione e iniziamo a leggervi quelle che sono un po' le notizie delle ultime settimane. Visto che vabbè questa qua ci è sfuggita, scusate, questa notizia è del 19 maggio, ultima ora il 19 maggio appunto. Pini rinuncia definitivamente al progetto del mega macello di Manerbio. Nessun macello né a Manerbio né altrove, è ufficiale. Piero Pini abbandonerà definitivamente la costruzione dell'impianto di macellazione di Manerbio. Di certo la rassegna delle dimissioni dell'ex sindaco Cesare Meletti, della maggioranza dei consiglieri e il commissariamento del comune ha fatto mancare quell'appoggio politico che fin dal principio era stato garantito all'imprenditore valtellinese. Piero Pini però non abbandona l'idea di investire in Italia ed è determinato a portare a termine il progetto che prevedeva la realizzazione del più grande macello di suini d'Europa. La campagna prosegue, la lotta non si ferma, fino alla fine per la liberazione animale, coordinamento contro il mega macello, di cui ricordiamo c'è un blog che è controilmegamacello.blogspot.it dove trovate queste e tante altre informazioni. Ok, passiamo agli appuntamenti, cerchiamo di andare in ordine cronologico, tanto ci siamo perfettamente organizzati perché siamo molto professionali noi, soprattutto in questa fase della trasmissione, quindi andiamo veramente random. Vabbè, ricordiamo un appuntamento di cui abbiamo parlato parecchio nelle ultime settimane, due settimane fa abbiamo anche dedicato la trasmissione agli organizzatori di questo appuntamento, cioè la manifestazione nazionale contro gli allevamenti di visoni che si terrà sabato 8 giugno a Bergamo, e appuntamento a Bergamo al piazzale della Malatesta alle ore 14, manifestazione organizzata dal coordinamento Liber Selvadec. Per informazioni potete scrivere a liber.selvadec@autistici.org, trovate comunque l'appuntamento sul sito informa-azione.info. Anche se non sappiamo che cosa voglia dire Liber Selvadec, in quale lingua sia. Dovevamo chiederlo, ma non l'abbiamo chiesto, non l'abbiamo fatto, vabbè. Ok, poi il prossimo appuntamento, ci sono due appuntamenti poi in realtà in quel fine settimana, sempre uno dell'8 giugno e poi ce n'è uno il giorno successivo, il 9. Sì, sempre l'8 giugno c'è un appuntamento contro la vivisezione. Infatti ricordiamo che l'8 giugno i famosi ricercatori a favore della sperimentazione animale faranno una nuova dimostrazione a favore della sperimentazione animale. In risposta c'è una manifestazione a via Vanvitelli 32 a Milano che si chiama Continuiamo ad abbattere il muro del silenzio, perché comunque viene lanciata sempre dal coordinamento Fermare Green Hill e appunto segue il filo che era stato lanciato ad aprile prima della liberazione nello stabulario dell'Università di Milano. Quindi in questa occasione, come leggiamo dal comunicato di Fermare Green Hill, si darà lettura dei protocolli degli esperimenti che venivano condotti in quei laboratori sino a che non sono stati interrotti. Cosa succede quindi agli animali implicati, per quale fine e con quale giustificazione. Il comunicato è molto lungo, vi rimandiamo al sito www.fermaregreenhill.net. Ricordiamo soltanto l'appuntamento 8 giugno via Vanvitelli 32 Milano. Vabbè. Invece il giorno successivo, il 9 giugno, Il 9 giugno altro appuntamento contro l'industria della pelliccia, organizzato questa volta dalla campagna Visoni Liberi, e qualsiasi riferimento lo trovate sul sito visoniliberi.org, che abbiamo sentito un po' di tempo fa anche in trasmissione, un coordinamento che ha fatto anche una lunga e approfondita inchiesta sugli allevamenti di visoni in Italia, entrando in diverse strutture e documentando la morte e la sofferenza degli animali. Beh, avviamo l'appuntamento 9 giugno a Offanengo in provincia di Cremona, fermiamo l'apertura di un nuovo lager. A Offanengo il signor Doldi Ismaele sta costruendo un nuovo allevamento di visoni. Si tratta di 4 capanni le cui gabbie potranno imprigionare migliaia di animali destinati a diventare pellicce. Domenica 9 giugno ci troveremo alle 16 in piazza Narciso Franco Patrini per un presidio informativo e far conoscere agli abitanti del paese la realtà di questo nuovo lager in costruzione. Ci sposteremo poi davanti a Cascina, Becchi il Sud, dove Doldi sta costruendo i capanni. Nella provincia di Cremona e di Bergamo stanno aprendo nuovi allevamenti da considerarsi allevamenti satellite del MIFO di Giovanni Bocù, che si premura di fare il lavoro finale sugli animali, uccisione, scuoiamento e trattamento delle pelli. In questo momento Bocù spera di poter allargare la lobby in difesa della sua attività e ovviamente lucra ancora di più sulla sofferenza degli animali. Ricordiamo che Giovanni Bocù è il presidente dell'AIAV, Associazione Italiana Allevatori Visoni, e ha un allevamento, mi sembra, in Emilia Romagna, che è stato visitato diverse volte da, chiamiamoli, anonimi liberatori, che hanno liberato così migliaia di animali altrimenti destinati a morire. Purtroppo la struttura però non è ancora chiusa e Bocù continua a fare il suo lavoro e a imprigionare e uccidere animali. Comunque le informazioni per l'appuntamento del 9 giugno le trovate sul sito visionilibery.org. Ma adesso mettiamo un brano che era tanto voluto dal Sor Mocio prima dell'ultimo appuntamento. Va bene, mettiamo una canzone. Questa è Trying to Find a Balance. They love the taste of blood. And I don't know what that means, but I know that I mean it. Maybe they're as evil as they seem, or maybe I only look out the window when it's scenic. Atmosphere finally made a good record. Yeah, right, that almost sounds convincing. The last time I felt as sick and contradictive as this was the last time we played a show in Cincy. Get real, they tell me. If only they knew how real this life really gets. They would stop acting like a silly bitch. They would respect the whether or not they believed in it. Doesn't take much and that's messed up, because these people do a lot of simple to impress us. While everyone was trying to outdo the last man, I was just a ghost trying to catch some Miss Pac-Man. Hello ma'am, would you be interested in some sexual positions and emotional investments? See, I'm not insane, in fact I'm kinda rational. When I be asking, yo, where did all the passion go? East Coast, West Coast, Down South, Midwest. Nowadays everybody knows how to get fresh. Somebody give me a big yes. God bless America, but she stole the beat from West. Now I'm too f***ed up to dance, so I'ma sit with my hand on the front of my pants. You can't achieve your goals if you don't take that chance. So go pry open that trunk and get those amps, you know? In days of kings and queens, I was a jester. Treat me like a god, or they treat me like a leper. You see me move back and forth between both. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. In the days of kings and queens, I was a jester. Treat me like a god, or they treat me like a leper. You see me move back and forth between both. I'm trying to find a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. I'm trying to find a balance, I'm trying to build a balance. So now I keep a close eye on my pets, because they make most of their moves off of instinct and sense. It's eat, sleep, and self-defense. So straight, you can set your clocks and place bets. Wait, let's pray on a blind, deaf, dumb, dead. Hustle, maybe a couple will love what you said. MCs drag their feet across a big Ritorniamo in onda e continuiamo con gli appuntamenti. Vi segnaliamo quello che è il corteo nazionale contro i mattatoi, che si svolgerà a giugno, il 15 a Firenze. Concentramento in Piazza della Repubblica, ore 13:30. Per maggiori informazioni potete cercare su internet, purtroppo noi le sole informazioni che abbiamo per ora le abbiamo trovate su Facebook, quindi se volete fidatevi della nostra parola. Comunque sicuramente lunedì prossimo sentiremo gli attivisti e le attiviste che lo stanno organizzando e vi faremo avere informazioni più precise. Nel frattempo, tra il dire cavolate e il dire cose vere, mi sa che è finita la trasmissione. O abbiamo altre cose da aggiungere? Io metto la musica elettronica. Escape, escape, Beagles and Apes. Escapes, i nostri contatti. Escapes, Beagles and Apes. Escape. Vai, vai. No, niente, possiamo aggiungere i nostri contatti che sono indirizzo mail lagazzaladra@inventati.org. Il nostro blog. Perché devi fare questa voce? Comunque radiopossum.noblogs.org. Una voce radiofonica faccio. No. Se no possiamo pure parlare di come è andata la serata di qualche giorno fa che abbiamo, a cui abbiamo partecipato al Forte Prenestino. No? Vabbè, diciamo che è stata abbastanza partecipata. Sì, che abbiamo fatto questa serata per parlando di allevamenti e quindi di sfruttamento animale a scopi alimentari, proiettando alcuni video, legando appunto questa iniziativa sempre a Scarceranda, quindi il concetto di carcere, diciamo la condanna al carcere in sé, che sia per gli animali o per gli uomini. Dopodiché è nato, abbiamo fatto un piccolo dibattito e la scena vegana, ovviamente. Sì, vabbè, diciamo che poi il dibattito è stato proprio molto piccolo, perché poi il luogo non era il massimo per dibattere. Diciamo, l'ora era tarda. Comunque no, invece la partecipazione c'è stato un certo la partecipazione riscontro. È stata buona, va bene. Comunque, e va bene. Niente, allora ci salutiamo qui e noi abbiamo con un po' di anticipo una quasi redattrice in incognita che disegna il giornale qui vicino a noi. Speriamo che sarà una delle e che tenta di mimetizzarsi. Fa la vaga. Vabbè, vi diamo un'indicazione, l'avete già sentita in una puntata un po' di tempo fa, quindi. E comunque vabbè, dai, niente, ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata su un argomento sempre di attualità, ma soprattutto cercheremo di darvi notizie di un personaggio a noi caro che ultimamente è un po' scomparso dalle nostre frequenze. Mocio, vuoi dire tu chi è? Non sai chi è? Non sai che questo non è molto grave, è? Perché è Carlo Giovanardi, che però purtroppo non parla più. Giovanardi non prende più parola, forse perché non è stato eletto, vabbè. Comunque, vabbè, come al solito, allora, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che stanno privati della propria libertà personale. Siano essi umani o non. Ciao. Ciao, a lunedì prossimo. Ciao.